Discoteche chiuse e mascherine obbligatorie all'aperto nei locali. Stretta del governo per contenere la diffusione del coronavirus in seguito all'aumento negli ultimi giorni dei casi positivi. Dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Un reddito di continuità che possa, tra un contratto e l'altro, dare uno strumento di reddito ai cittadini, professionisti e professionisti dello spettacolo. La musica dal vivo ai tempi della pandemia. Siamo in collegamento con Lorenzo, ti salutiamo, ciao. Ciao, ciao a tutti. Allora, innanzitutto ti chiedo come stai, che è una domanda un po' di rito per le interviste. Compatibilmente con la situazione globale, bene. Ti abbiamo chiamato perché vorremmo parlare un po' della situazione all'interno dei conservatori. Noi sappiamo che sei uno studente al Conservatorio di Ferrara, magari se vuoi presentarti un po' per sapere cosa suoni, cosa fai. Sì, certo, allora io studio chitarra jazz. Sono un laureando, cioè quest'anno sto finendo al Conservatorio di Ferrara. Sì, poi diciamo provo a fare il musicista nella vita di tutti i giorni, poi avremo modo di vedere tutte le varie difficoltà che stiamo incontrando in questo periodo. Ti abbiamo chiamato perché vorremmo sapere un po' come uno studente, una studentessa di un conservatorio sta vivendo una situazione come quella della pandemia globale che è scoppiata da qualche mese. Quindi come è stata organizzata la didattica all'interno dei conservatori e quindi come si sono svolte le lezioni? Allora, praticamente quando scoppiò tutto a febbraio e ci misero in lockdown completo, noi facciamo solamente delle lezioni online. Abbiamo fatto le lezioni online di quasi tutte le materie, compreso strumento, tranne musica d'insieme e improvvisazione, che sono appunto materie collettive ed era impossibile svolgerle online, e quindi le abbiamo recuperate poi a ottobre, quando i conservatori hanno potuto riaprire. Abbiamo fatto insomma due corsi intensivi in un mese per una materia che sarebbe dovuta durare un intero anno. Invece adesso che la situazione è diciamo leggermente più sciolta, noi riusciamo a fare tutte le varie lezioni in cui appunto dobbiamo suonare, le facciamo in presenza perché ci vengono contate come se fossero dei laboratori, diciamo. Ti vorrei chiedere come hai vissuto tu da studente una situazione del genere, e quindi sei diciamo stato costretto a seguire delle lezioni online per una disciplina che sembra quasi impossibile praticare a distanza. Esatto, difatti è impossibile praticarla a distanza, e quindi abbiamo anche appunto rimanendo in contatto con i miei amici, con i miei compagni di corso, siamo tutti rimasti un po' traumatizzati dalla didattica a distanza in ambito della musica, perché impedisce completamente le possibilità di relazionarsi con gli altri musicisti, di stare insieme. Quindi se da un lato un musicista può concentrarsi maggiormente sugli aspetti magari più tecnici del proprio strumento, perde completamente gli aspetti che hanno a che fare col suonare insieme agli altri, che è poi lo scopo nostro. E invece Lorenzo, per quanto riguarda gli esami, vi è capitato che vi facessero fare magari degli esami a distanza, che diciamo comunque gli esami in cui è prevista la prova comunque con lo strumento sembra veramente difficile da immaginare? Come è successo questo, o siete riusciti a evitarlo? Siamo riusciti ad evitarlo, sono riuscito a fare il mio esame di strumento in presenza ancora a luglio. Ah, bene, quindi questo almeno sì. Un lato positivo. Sì, almeno questa l'abbiamo scampata, diciamo. Invece per quanto riguarda i progetti al di fuori del conservatorio, diciamo cose tue personali, che sicuramente, come anche prima mi sembra tu abbia accennato, porti e portavi avanti, come ti sei arrangiato, diciamo, in questa situazione? Sì, allora, praticamente io suono ormai da un paio d'anni in un quintetto jazz che si chiama Carabò. Insomma, avevamo cominciato a prendere un po' piede nella situazione live qui a Bologna, facendo alcune serate in vari locali, e poi abbiamo ovviamente dovuto smettere, e durante il lockdown non siamo nemmeno riusciti a vederci fra di noi, perché appunto provenendo da varie regioni d'Italia ognuno era tornato a casa ed era impossibile anche solo provare qualcosa o semplicemente stare insieme per fare gruppo. Abbiamo fatto un paio di esperimenti di, come posso dire, di registrazioni a distanza, però appunto la pratica del suonare insieme è insostituibile, quindi ha detto che possiamo tornare più o meno a venirci a fare delle prove. Stiamo tentando di prepararci per la riapertura, che tutti quanti speriamo avvenga il prima possibile. Esattamente, quello che speriamo tutti. Invece ti volevo chiedere, a te proprio personalmente, ti sembra che questo anno abbia inciso magari sulla tua confidenza con lo strumento, se in qualche maniera anche magari le varie restrizioni, la mancanza anche di stimoli ti abbia portato, non so, magari a un leggero allontanamento da quella che era la quotidianità e quindi magari perdere anche un po' della tua, appunto, ripeto, confidenza con la chitarra nel periodo pre-lockdown, appunto? Sì, diciamo che ovviamente durante il lockdown noi, come già ho potuto accennare prima, abbiamo avuto più tempo per studiare, ma in realtà abbiamo avuto molto meno stimoli, quindi insomma se siamo riusciti, almeno io per esempio, sono riuscito a far fruttare poco in realtà il molto tempo che avevo a disposizione. Penso che sia stato così un po' per tutti, sentendo varie persone, anche i miei insegnanti per esempio sono rimasti parecchio frustrati dal dover tentare di insegnare qualcosa tramite un mezzo che non è confacente alla natura delle cose che dovremmo fare. Quindi c'è stato questo paradosso di poter fare molto a livello di tempo e di possibilità organizzative, ma di in realtà poter fare molto poco a livello appunto di stimoli e di predisposizione dell'animo, insomma, a migliorare nelle discipline musicali. Va bene, ti farei l'ultima domanda. Visto che comunque diciamo che durante i mesi di totale lockdown siamo state costretti a stare chiusi in casa, volevo chiederti se durante questo periodo questo fattore della pandemia abbia, diciamo, modificato i tuoi ascolti e ti abbia dato più tempo per ascoltare musica che magari non ascoltavi da un po' o non hai mai avuto tempo di ascoltare. Sì, da questo punto di vista sono d'accordo, nel senso che perlomeno abbiamo avuto più tempo per poterci svagare ascoltando la musica che facciamo o che ci piace. Almeno questa piccola gioia ce la siamo potuta conquistare durante la pandemia. Quindi adesso ti devo chiedere se c'è un pezzo che vorresti ascoltare e che ascolteremo tutti assieme. Sì, il pezzo c'è, propongo A testa in giù di Pino Daniele. Ottima scelta. Ti ringraziamo, allora, grazie per essere stato qua con noi. Ciao Lorenzo, grazie mille, disponibilissimo. Grazie per il tempo che mi avete dedicato, è stato molto carino. E speriamo di poterti venire a sentire in concerto dal vivo, quando la musica riprenderà a essere dal vivo e non più online. Lo speriamo tutti, spero di poter un giorno poter tornare a suonare dal vivo, ecco, diciamo così. Dai, grazie, ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo, ciao. Quell'autostrada è un muro pieno di felicità, no, no. Io rimango sveglio cercando qualcuno che vuole fumare a metà. E correndo te ne vai, chiudi gli occhi e non ci sei, e hai voglia di un caffè che ti tiri un po' più su. Ma che vuoi se tutto non è come sei? Ma che vuoi? Ma che vuoi se non respiro mai? E non so che giorno è. tutti fuori ogni momento. E tutta la tua vita sai di essere un nero a metà. Mentre il buio se ne va, ti ritrovi a testa in giù, perché hai dato sempre tanto e adesso non tieni più. Ma che vuoi?